24, la storia. Che cosa vuol dire per te fare gol? Per me fare gol è la cosa più importante che c'è. Che cos'è un ritiro? Il ritiro è una noia. Cosa sono per te i soldi? I soldi sinceramente sono importanti, è inutile nasconderlo. Però alla fine è rimanere sempre per terra, cioè essere umili. Mi spieghi che cos'è tecnicamente un cucchiaio? Tecnicamente un cucchiaio è una cosa semplice, cioè è... Per te? Che mondo vorresti per tuo figlio Christian? Sicuramente il mondo che ho vissuto io. E se Christian ti dicesse: papà, voglio fare il calciatore? Magari. Francesco Totti, classe 1976, capitano della Roma, campione del mondo con la nazionale nel 2006, simbolo del calcio italiano, di un calcio pulito, nato in periferia, lontano dagli scandali. In giallo-rosso da sempre Totti è oggi una bandiera del calcio italiano, simbolo dell'attaccamento e della fedeltà alla propria maglia. Marito e padre, uomo maturo, impegnato nella beneficenza e nella solidarietà. Insomma, un grande campione e un grande uomo. Oggi a Mix 24, alla vigilia del suo compleanno, vi proponiamo il ritratto di Francesco Totti, un campione sempre pronto a scherzare anche su se stesso, popolarissimo fra i tifosi e la gente comune. E allora iniziamo questo viaggio nel mito di Totti, provando a capire insieme a personaggi come Fiorello, Gianni Mura, Gigi Riva, Claudio Amendola, Sabrina Ferilli e poi sua moglie Ilari Blasi, i suoi amici e tanti altri, cos'è che lo rende così speciale. Definire un personaggio come Francesco Totti non è facile, perché rischieresti di cadere nel banale. È un giocatore di calcio che dispensa bellezza, è una merce rara oggi. Francesco è il calcio. Francesco è un genio, uno come noi, ti dà l'impressione, però è un genio. Mon petit garçon, pour toute la vie garçon. Lui è unico come ragazzo. Il pupo non si batte perché ha un carattere dolce. È il numero uno. È il numero uno. Gioca nella Roma, ma è amato da noi interisti, è amato dallo Juventino, perché uno come Francesco Totti, insomma, non si può non amare. Fra 40 anni, fra 50 anni, uno si ricorderà delle gesta di questo ragazzo della periferia di Roma. Come punta sarebbe stato bello giocare invece vicino a Totti, perché effettivamente mette a sua disposizione il talento per quegli attaccanti che insomma sanno sfruttarlo. Ecco, ma come nasce Francesco Totti? Dove ha tirato i primi calci al pallone? Insomma, campioni come lui, si nasce o si diventa? Francesco è un bambino molto timido, ma quando indossa le scarpe da ginnastica e si trova tra i piedi un pallone da calcio, si trasforma. Il calcio per me era tutto da bambino, perché la sera mi vedevo tutte le partite internazionali, seguivo tutto. Senza pallone non sapevo stare. Facevo finta di studiare per sbrigarmi per scendere a giocare, perciò era la mia passione. Il papà lavora in banca, la mamma fa la casalinga. Francesco ha un fratello più grande, Riccardo. Sia mia madre che mio padre è quasi tutto merito loro, perché loro mi hanno insegnato la vita, cioè il modo di comportarsi, soprattutto con le persone più grandi, il rispetto, l'educazione. Lei prima di tutto dice sempre: devi studiare, perché lo studio è più importante del calcio. Io alcune volte la sentivo, l'ascoltavo, però alcune volte cercavo di girargli intorno e scappare. Francesco inizia a dare i primi calci al pallone da piccolissimo, ma c'è già chi nella scuola calcio si accorge che quel bambino da grande sarà un campione. È stato sempre educato, era sempre il primo a salutare, il primo a vedere quelli che poi bene o male erano i calciatori di prima squadra. Il mio idolo era Giannini, da lì mi ispiravo, ogni volta che veniva a Trigoria cercavo di osservarlo, di guardarlo, anche se ero piccolo. È vero che ti portavi a letto il pallone? Sì, è vero, mi portava a letto il pallone, soprattutto quando ero più piccolo. E quel bambino che si portava a letto il pallone è diventato per la sua città un vero e proprio simbolo. Conteso dalla Lazio e dalla Roma, che mettono gli occhi su questo ragazzo così giovane ma già così promettente, Totti deve scegliere tra le due squadre della capitale. Un giorno chiamarono mia madre, mio padre, il presidente della Lorigiani, e gli dissero: c'è Francesco che lo vogliono sia la Roma che la Lazio. E quel giorno c'era anche mio fratello. Quando mia madre doveva rispondere, mio fratello prende a calci mia madre sotto al tavolo perché dicesse la Roma. Quando c'era una caviglia gonfia, mi ha detto Roma. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone. No, da quel momento sono rimasto nel settore giovanile fino a 16 anni e mezzo. E poi iniziano ora per la squadra. Quando arriva alla Roma, Totti ha solo 13 anni, da allora non lascerà più la maglia giallorossa. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 con il ritratto di un grande campione, Francesco Totti. Cresciuto nelle giovanili della Roma a soli 16 anni, grande salto. Dalla primavera alla prima squadra. L'allenatore Boskov, ma per l'esordio vero e proprio, quello allo Stadio Olimpico, bisogna aspettare la partita Roma-Foggia. L'allenatore è Carlo Mazzone. Francesco Totti ha meno di 18 anni e proprio durante questa partita segna il suo primo gol in Serie A. Tra lui e la Roma è amore a prima vista. La sensazione pure là è bellissima. Ero molto giovane, avevo 17 anni. 17 e mezzo. Non era facile entrare e giocare in uno stadio così pieno, però alla fine se riuscirò a fare bene mi conservo questa giornata bellissima. Per la curva sud è nato il mito di Francesco Totti. Fino a quel momento i tifosi romanisti hanno sempre avuto campioni romanizzati che sono andati via nel giro di una o poche stagioni. Il tifoso romanista invece vuole un campione che gli sia familiare, romano e romanista. Per la curva, Francesco Totti è come un sogno a lungo atteso che diviene finalmente realtà. Così Claudio Amendola. La parte giallorossa della città ama così tanto Totti perché da Totti si sente rappresentata, protetta e soprattutto gratificata. Essere romano e romanista penso significa essere orgoglioso, orgoglioso di quello che sognavi. Cioè di diventare un giocatore della Roma, essendo tifoso della Roma. E Totti ha fatto una scelta coraggiosa, che è quella appunto di rappresentare probabilmente uno degli ultimi campioni attaccati a una bandiera. Totti è come il Colosseo, è indivisibile da questa città, lo amiamo come simbolo, come giocatore e come persona. Non ho mai visto, insomma, l'affetto della gente, quindi tu fai una battuta, magari poi ti incontra Romano, oh, che hai detto l'altro giorno, oh, sta attento, sai, lascio stare Francesco, succede. Totti avrà sempre l'affetto e la simpatia della gente, quindi la carriera di Totti non finirà con il calcio, andrà oltre. Avete sentito Gigi Rivia, dunque Totti è il campione che ha realizzato i sogni e le aspettative di un'intera città, ma anche una persona semplice, legata agli affetti e agli amici della sua infanzia. Questo insomma è il ritratto di Francesco Totti nel privato, raccontato da chi gli sta più vicino, dalla moglie Ilari, e poi da amici e parenti. Francesco di carattere, ma apparentemente, forse per chi non lo conosce, un po' scontroso, un po' introverso, e un po' forse sulle sue, un po' distaccato. Poi nella vita di tutti i giorni, quindi come marito, come compagno, come amico e tutto quanto, è una persona comunque solare. L'amicizia per Francesco è un valore molto importante, lui è legatissimo e ha pochi amici, devo essere sincera, quelli di sempre, quelli con cui è cresciuto. Ho conservato gli amici d'infanzia perché sono persone vere che, come ho detto prima, sono state vicine soprattutto nei momenti difficili. diciamo che alla fine è una sorta di convivenza, perché io convivo con lui anche con gli amici, perché spesso poi vanno qui a casa, insomma ci vengono a trovare, insomma poi si parla di tutto, ci si confida anche. Difetti di Francesco, forse quello che adesso mi viene subito è che parla poco, quindi si tiene tutto dentro e a volte anche quando ci sono dei problemi, prima che riusciamo a parlarne così ci vuole un po' di tempo. È un po' permaloso. Molto permaloso, no, un po'. È un po' permaloso. E mi piace il fatto che se tu gli chiedi a bruciapelo se lui si sente più bravo, più fortunato, lui ti risponde sempre e comunque più fortunato, senza pensare. Con la Roma, la sua Roma, Francesco Totti ha coronato un sogno, il sogno di far vincere la sua squadra il terzo scudetto. È il 17 giugno del 2001. Quando scendi in campo e vedi tutta questa gente che ti acclama, che ti spinge per vincere la partita, devi assolutamente vincere la partita. Il 17 giugno del 2001 penso che sia stato un coronamento di un sogno, cioè un giorno difficile da descrivere. Vincere uno scudetto con la propria squadra penso sia il massimo. E le sensazioni e le emozioni che ho provato quel giorno non so se riuscirò a ritrovarle. Che ti hanno detto a casa i tuoi genitori? Niente, anche perché piangevano tutti, perciò mi hanno abbracciato, anche perché poi sono arrivato a casa dopo tre giorni, dal 17 sono arrivato il 20 giugno a casa, perciò. Sembrava un tifoso della Roma che stava a festeggiare lo scudetto della sua squadra, era esattamente uguale a tutti noi ed era soltanto sommerso da baci e da abbracci di tutti noi. Per tre giorni non ho visto nessuno, ero in giro, dormivo per strada. Nel tifoso romanista il giocatore più amato romano e romanista è Totti, diciamo, l'attrice, la donna più amata, più desiderata è la Ferilli. Lei tifosa della Roma già da prima, su un giornale si lasciò andare a questa promessa: se vinciamo lo scudetto mi spoglio davanti a tutta la città. Fu così uno scherzo che partì a un certo punto. Sì, che si sarebbe spogliata anche al Circo Massimo, anche a 1,5 milioni di persone. E poi la cosa si montò un pochino da sola, arrivati verso la fine del campionato era diventato, insomma, un fatto pubblico, era diventata una questione di Stato. Quindi... Il problema è che si è spogliata, perché alla fine è rimasta per il Zoma e il Reggiseno. Spogliata è un'altra cosa, come tutti si aspettavano. Però penso sia una cosa giusta così, perché sarebbe stato uno scandalo. Il mio sogno è di rivincere un altro scudetto con la Roma o una Champions League. 11 minuti e 13 secondi, Francesco Totti ha portato in vantaggio la Roma con un pezzo d'antologia. Un campione che sa regalare emozioni ai suoi tifosi, con un forte senso del gioco, che sa dove mettere la palla e che in fase di conclusione è capace di tirare fuori colpi di genio. Ascoltiamo Gigi Riva e Daniele De Rossi. Le qualità tecniche sono quelle che gli ha dato il Padre Eterno, cioè sono quel qualcosa in più che gli altri non hanno. Capacità di palleggio, grande visione di gioco, anche grande fisico, anche grande capacità di corsa, capacità di resistenza alle botte, a tutto quanto. Si fa vedere Totti, tocca per lui, la magia di Totti. Corri, fai il cucchiaio. Tecnicamente un cucchiaio è una cosa semplice, cioè è come se avendo il pallone davanti lo scavi facendo prendere una traiettoria che sube il portiere. Amsterdam, 29 giugno 2000. Allo Stadio Arena si gioca la semifinale degli europei tra Italia e Olanda. L'allenatore della nazionale Dino Zoff a inizio partita decide di non schierare Totti. Francesco entra in campo solo pochi minuti dalla fine. Il risultato è inchiodato all'1-1. anche alla fine dei tempi supplementari il risultato non si sblocca, si va ai rigori. Era un panchina che fremevo di che potessi entrare almeno 10 minuti, poi alla fine ci sono riuscito. In quel momento, siccome tutta la settimana avevo informato ai miei compagni che se fossimo andati ai rigori avrei fatto, diciamo, questo cucchiaio, questo benedetto cucchiaio. Lui, poco prima di incamminarsi verso il dischetto del rigore, si gira verso i compagni, verso Maldini, verso Di Biagio, Nesta, e dice loro: mo vi faccio il cucchiaio, via. E se ne andate. Quindi no, no, erano detto, ma io sono scemo, hanno detto, non fa cavolate cose. E detto, vabbè, mo vedi. Allora comincia a mettere mani nei capelli e cose, tu sei matto. È andato lì freddo, già ero consapevole di quello che stavo facendo. E niente, arrivo a quel momento, per me ha parlato un dischetto, ho detto mi sa che non lo faccio, perché ho visto dietro la curva tutta arancione, portiere alto 2 metri che era Van der Sar, ho detto mi sa che ci ripenso. Però alla fine ho detto, non posso fare la figura, ma io ho detto a tutti così. È arrivato lì, tac, hop, cucchiaio. Certo che se l'avesse sbagliata, ragazzi, però è andata bene. Fin qui i trionfi sportivi di Totti, l'estro, la tecnica del campione eccezionale. Nel suo modo di giocare pare concentrarsi quasi l'essenza stessa del calcio come divertimento puro. Ma il calcio purtroppo è anche ben altro. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Francesco Totti, un grande campione positivo, l'esempio per migliaia di giovani di un calcio pulito, fatto di fatica, di lavoro, di sacrificio. Ma il calcio è fatto anche di altro. Il calcio sta diventando brutto, non è più il divertimento di prima, ma il calcio è tutta un'altra cosa. Il calcio è divertimento, è far divertire la gente, passione, non è essere condizionati dal palazzo o dal potere. Il calcio va vissuto i 90 minuti, chi è più forte vince. Il doping è una parola molto pesante, penso che il doping alla fine non serve a niente, perché non serve a niente, perché non ci deve essere questo doping, perché alla fine dobbiamo essere tutti uguali. Non serve drogarsi o aiutarsi con medicine o sostanze che ti possono dare qualcosa in più. Con lui non gli è mai interessato, perché Francesco non ha mai preso niente. Il doping degli anni 90 è il doping degli armadi, come si chiamano in gergo, cioè fisico massiccio, grande aumento delle masse muscolari. Andiamo a vedere la formazione della nazionale italiana che ha vinto i mondiali dell'82. Paolo Rossi sembra uno riformato alla leva. Scirea, che giocava libero, aveva il torace incassato e 2 spallucce spioventi, e parlo di difensori. Il giocatore che prende queste sostanze che gli permettono di dare delle prestazioni eccezionali, poi a lungo andare le paga. Il giocatore che si dopa rischia proprio veramente poi l'infarto oppure un qualche cosa di più grave. Si riconosce il giocatore che ha preso delle sostanze come le anfetamine, un occhio esperto lo nota, perché vede che questo il secondo tempo invece da fermarsi corre ancora e non si ferma più. Chiaro, se il giocatore fa una vita sana, va a letto presto, non abusa di alcol e si nutre bene, non ha bisogno assolutamente di niente. Quello che avete sentito è la voce di Giorgio Rossi, per oltre 50 anni massaggiatore della Roma, una figura storica della squadra che ha accudito tutti i suoi campioni, da Falcao a Giannini, da Bruno Conti ad Agostino Di Bartolomei. E proprio Giorgio Rossi ha vissuto in panchina l'incidente che ha rischiato di chiudere la carriera di Totti. Quello che mi ha impressionato è che lui ha detto che voleva essere cambiato, perciò ha capito che si era fatto male. E in quel momento non riuscivo a capire cosa fosse successo realmente. Poi, appena ho lasciato la caviglia che la tenevo con la mano, ho visto che mi andava a destra e a sinistra, lì ho capito che qualcosa non andava. Cosa hai pensato il 19 febbraio quando Totti si è fatto male? Come se fosse venuto a mancare un parente. Addirittura. L'ha presa bene, l'ha presa benissimo. Con le lacrime, con le lacrime. Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido. Alla fine poi quando ho fatto l'attacco, risonanza, tutto quanto, hanno detto che era un intervento difficile, però alla fine sicuramente sarei tornato a giocare. Mi sono tranquillizzato e ho continuato con la stessa voglia. Cioè questo si è fatto la caviglia, se l'è girata dall'altra parte, dopo una settimana stava già correndo a Trigoria. A tavola con Francesco Totti durante la convalescenza della caviglia, quindi si è concesso, ma non credo che sia uno che ha mangiato tutto, qualsiasi cosa. Anzi, mi ricordo proprio che gli ho chiesto: ma tu segui un'alimentazione? Sì, come dire, dovrei, ma ci passo sopra. Lui in realtà forse è più goloso che mangione, perché comunque non mangia tutte le verdure, non mangia tutti i formaggi. Lui è goloso di Nutella, la Nutella proprio, anche il bagno si farebbe con Nutella. Le privazioni alimentari, loro dicono la Nutella, i dolci, però certe volte ne faccio a meno, ma certe volte prendo tutto, non posso evitare, anche perché sono un ragazzo molto goloso, perciò mi sono sempre piaciuti i dolci e non posso accantonarli. C'era un momento che lei stava a dieta e allora faceva tutte le cose contate, i rigatoni, i spaghetti, tutta precisina. Ho detto: senti, gli toglio bene, ma non è che posso morire di fame, perché... Hai detto: vabbè, ma la dieta è importante. È dotato di un senso dell'ironia, dello humor non indifferente, e soprattutto nel rapporto con la moglie. Veramente delle volte possono anche rasentare i grandi come Raimondo Vianello e Sandro Mondaini. Da vedere quella puntata di Fazio quando disse dei maccheroni, che fu spettacolare. E poi si mangia, perché Ilari cucina benissimo. No, ha detto che non è che non cucino, innanzitutto sono sempre attenta, quindi cucino cose molto semplici. Sta sempre a dieta, come grassa? Sì, lei sta sempre a dieta, sì. Si fa 16 rigatoni al giorno. 16? Rigatoni. Ah, li conta? Li conta. Davvero? Sì. No, è capitato una volta, dai. Qualche anno fa in un'intervista gli chiedo: qual è il tuo sogno? E lui rispose: andare a spasso per via del corso. Perché sono anni che non vado a fare la passeggiata nel corso. Non ha detto andare alla Hawaii, semplicemente poter fare una camminata in una strada di Roma senza essere braccato, assediato, fotografato. Ma la popolarità di Totti naturalmente non si limita soltanto a Roma, alla sua città. Nel 96 infatti Arrigo Sacchi lo convoca in nazionale, in realtà però quello tra Totti e la maglia azzurra non sarà mai un rapporto facile. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nel 96 Totti giovanissimo inizia la sua avventura con la squadra azzurra. Un amore contrastato, e proprio con la maglia della nazionale, con le telecamere di tutto il mondo puntate addosso, il campione compie un errore che gli costerà la squalifica. Ascoltiamo lo stesso Totti e poi Gigi Riva. La prima volta che mi hanno convocato è stato Sacchi, ero molto giovane, avevo quasi 18 anni. Sinceramente non ci credevo, perché così giovane chiamarmi in nazionale non ci credevo. Poi alla fine, quando sono andato a casa, ho letto il televideo e tutto quanto, che ero convocato lunedì mattina alla Borghesiana, ho preso il colpo. La prima volta che è arrivato ricordo che era molto disponibile, ha parlato pochissimo, timido, ha salutato. e poi in campo si è visto che aveva un grande futuro davanti. Far parte della nazionale per me penso che è come mettersi una ciliegina sulla torta, perché la nazionale è una delle cose più importanti che ci può essere, cioè rappresentare l'Italia all'estero. La maglia nazionale non si indossa, si appiccica la pelle, non va via più, ti resta attaccata per tutta la vita. Per quello che riguarda la nazionale, gli hanno attribuito un ruolo fondamentale che poi nei fatti non è riuscito ad onorare. Io credo che la maglia ideale di Totti sia quella giallorossa della Roma, fino a oggi almeno, perché non ha avuto una grandissima fortuna con la maglia azzurra della nazionale. Ci fu la famosa vicenda dello sputo al giocatore Poulsen. La gente si era scatenata con una reazione cattiva, era passata al massacro. Non c'era rispetto nei confronti di questo ragazzo che intanto ci aveva portato lui lì a questi europei. Anch'io gliel'ho detto che ha sbagliato, è stato un errore che purtroppo non doveva fare. Noi abbiamo visto solo la reazione di Totti, ma quello che ha passato lui nei 40 minuti prima dell'espulsione, con botte, insulti e roba del genere, nessuno lo ha mai preso in considerazione. Lui ha chiesto scusa e si è reso conto, però tutti sbagliamo comunque. Da quello sbaglio Francesco Totti ha saputo imparare. Oggi è un campione maturo, un capitano che dà il buon esempio in campo e anche fuori, lontano dalle telecamere e lontano dai fotografi. Un campione di solidarietà, ambasciatore dell'UNICEF dal 2003. Quando vedi alcune persone che soffrono, sto male. Sto male, perciò posso pensare che se ci fossi stato io, in quel momento, in quel posto, io mi avrebbero aiutato. Io caratterialmente sono fatto così, cioè dare una piccola mano, che per loro è importantissimo. Lui è molto sensibile alla felicità dei bambini. Siccome io ho mantenuto una promessa a te, sì, tu potresti mantenere una promessa a me? Quale? Una di queste due. Già sono due però, eh? No. poter andare a vedere un allenamento a Trigoria, sì, oppure entrare all'Olimpico insieme a te. Ah, tutte e due? Wow. I bambini per me sono tutto. Ti danno veramente l'amore. L'amore, l'affetto, poi adesso che sono diventato papà ho capito ancora di più cosa significa essere padre e avere un figlio. Un mito impegnato nella beneficenza, ma anche una persona ironica che sa ridere di se stessa. E con autoironia il capitano della Roma si presta alla stesura di due libri, Le migliori barzellette su Totti, raccolte da Totti. Un successo editoriale e insieme ancora una volta un atto di solidarietà. Ce lo raccontano Fiorello, Gianni Mura e Claudio Amendola. Totti è stato a lungo preso in giro da imitatori in TV per il suo accento romano, per il suo essere o sembrare un po' gnocco, e se la prendeva all'inizio. Invece poi, consigliato da Maurizio Costanzo, che dà in genere buoni consigli, si è deciso a far pubblicare un libro di barzellette su se medesimo. Francesco Totti al telefono chiama l'Alitalia. Vorrei sapere quanto dura il volo Roma-Milano. Un attimo, risponde l'impiegata dell'agenzia Viaggi. Ah, tante grazie, risponde Totti riattaccato. È stato un autentico successo e il ricavato delle vendite di questo libro è andato all'UNICEF. Ci sono state due edizioni diverse, ha venduto tra tutte e due quasi 2 milioni di copie. Io ne ho coniata una. Francesco, complimenti, hai venduto 500.000 copie. E lui dice 500.000 copie, Non è possibile, io ne ho scritto uno solo. Però a noi romanisti non fa piacere che ci siano le barzellette su Totti, perché per noi Francesco è una cosa seria. La Roma, la nazionale, la famiglia, la beneficenza, e allora per chiudere uno sguardo al domani. Cosa c'è per Totti nel suo futuro e come lo immaginano da grandi a chi gli vuol bene? Io già lo immagino grasso, prima di tutto. Me lo vedo con la pancia, sicuramente, è che vedo il papà già, che il nonno Enzo, che un po' di pancia ce l'ha, quindi me lo immagino come Enzo. Io lo prendo sempre in giro, gli dico che diventerà pelato con la pancia, però mi auguro di no. Tra 20 anni c'era altri tre o quattro figli. Lo vedrei come un ottimo padre di famiglia, con 4-5 figli da portare al Luna Park dell'Eure. Tra 20 anni vedo un Totti che forse fa il commentatore per una rete televisiva, vedo un Totti con 3 o 4 figli soprattutto, che si gode la famiglia e che cerca di fare una vita più normale di quella che fa adesso. Il mio sogno più grande è la famiglia. A 20 anni spero di non ingrassarmi troppo, però vedo una persona normale, è normale che potrò fare tante cose che adesso non posso fare. Sicuramente andrò in giro per il mondo e andrò a visitare posti che in questi 20 anni di carriera non avrò mai visitato. Carlo Mazzone, lei è l'allenatore che più ha contribuito a lanciare Francesco Totti. Ci racconta il momento in cui ha davvero capito che Totti sarebbe diventato un campione? È successo questo, che io allenavo la Roma e il giovedì facevamo delle partite tra di noi. La prima squadra contro la seconda squadra, e quando non avevamo numericamente la formazione delle riserve, chiamiamole, prendevamo dei ragazzi della primavera e meno male per me e per Francesco che fu fatta una scelta su di lui per giocare. E io, che ero appostato in panchina, l'ha visto, mi fece subito un'impressione e cominciai a parlare con i miei collaboratori, con gli addetti al lavoro della Roma, del settore giovanile, tutto quanto. Ma chi è sto ragazzo? È un ragazzo che gioca nella squadra del giovanile, ma questo è molto bravo. Mister, non lo so, dica lei, che facciamo così, facciamogli giocare adesso il primo tempo contro la prima squadra, poi lo facciamo giocare nella prima squadra senza fare troppi rumori, perché dopo noi a Roma siamo artisti per mettere sui giornali. Io non voglio che questo nominativo esca sui giornali domani, però prima fatemi vedere. Io ebbi subito la sensazione che questo ragazzo era un grande giocatore in prospettiva. Da cosa esattamente? Non mi sono sbagliato. Da cosa l'ha capito esattamente? La facilità di giocare con la palla, la visione di gioco. La velocità di pensiero sul gesto tecnico, i concetti primari e più importanti di un grande giocatore, insomma, veramente. Qual è il tratto distintivo di Totti? Cioè, in che cosa è unico? C'è velocità di pensiero e nell'interpretazione della giocata è difficile che sbaglia dei passaggi, delle conclusioni. Come ha fatto Totti a rimanere così umile pur avendo avuto così tanto successo? Questo penso che sia dipeso da lui e dalla sua bellissima famiglia, perché io poi immediatamente, quando io ebbi questa sensazione, mi misi a contatto con la famiglia di Francesco Totti, che il ragazzo, uno dei piccoli difetti che aveva, che usava un po' troppo la motocicletta, la bicicletta, per venire al campo, diciamo, guidava lui. Io ero sempre molto preoccupato e io poi avevo un dialogo diretto con il papà e la mamma, con la mamma perché per l'alimentazione del ragazzo, e col papà, con, diciamo, questo fatto che lui magari andava sempre in Vespa, io ero un po' preoccupato. Anche perché poi lui è molto goloso, l'abbiamo raccontato, ma perché Totti è l'unico capitano di bandiera in Italia, cioè, ovvero 25 anni sempre con la stessa squadra? Com'è possibile sia l'unico? Beh, perché quando uno conosce Roma, nasce a Roma, non può lasciare Roma. E io ne so qualcosa, perché io invece, essendo romano di Trastevere, ho lasciato Roma per Ascoli, ho avuto la fortuna di conoscere mia moglie, che sono particolarmente innamorato di questa donna. Quindi perché è un vero romano, per questo? Questo ragazzo vuole bene alla sua città. E chiaramente, così facendo, coinvolge anche la sua bella famiglia. Perché Totti non ha vinto il pallone d'oro? Ma forse perché non è simpatico a qualcuno, che devo dire io. A chi? Non lo so, onestamente, adesso non è che mi tiro via, è che veramente non so di queste cose. Io se posso parlare di calcio, questo sì, ma su queste sfumature, queste cose, non lo so. Meglio la Juve che la Roma per vincere il pallone d'oro? Beh, io tifo Roma. Ma oggi potrebbe nascere un nuovo Totti? Me lo auguro, auguro. È possibile? Beh, queste sono cose che io non sono all'altezza di dire. Si allevano ancora giovani talenti? È lo stesso modo di farli crescere adesso? Ma io penso di sì, i settori giovanili in Italia ce ne sono tanti, ogni squadra della Serie A e anche di B hanno dei settori giovanili anche all'avanguardia. Cosa pensa dell'allenatore attuale della Roma? Che è molto bravo, molto per bene, è una persona squisita. Questa Roma dove arriverà? Io mi auguro che vinca lo scudetto. Domani è il compleanno di Totti, un augurio per Francesco? Sì, io colgo l'occasione a Francesco di buon compleanno, giovanotto. Ti mando un abbraccio e un affettuoso buon compleanno. Ti saluto con affetto e ti ricordo sempre come un figlio. Poi ti chiedo di fare altrettanto con i tuoi genitori da parte mia. Grazie Carlo Mazzone. Mix 24.